su, dai, dai, dai. Oddio, oddio. Il clima. Aiuto. Con il quale parte l'ultima forse puntata di questo anno scolastico. Ma chi può dirlo? Buonasera, anche oggi si difende, la musica è incredibile, uno non l'avrebbe mai detto, invece primo luglio siamo ancora qui a rompere il senza indugi che io saluto subitamente alla mia destra, alla console, Betta. Oui, buonasera, oggi ho abbiamo un dito di meno. Abbiamo aggiustato la console, incredibile, incredibile, saluto alla mia sinistra, Virginia. Ma ciao, ma quanto tempo che non tonica, ci vediamo tutti tonica. Insieme poi. Stoppo gli applausi, sennò applausi già mi sto sentendo male, scusa. Proprio a Virginia ho deciso di stoppare l'applauso, ma a seguire, se lo merita, a seguire la giornalista faziosa Gabri Gruppi. Senza articolo, buongiorno, buonasera. Niente, sto perdendo tutti i colpi che potevo. Ma perché oggi siete tanti, quindi è una fatica, sì. Perché a seguire l'intellettuale del gruppo, la maestra, hola, professoressa hola, Viola. Hola. Ciao ragazzi, che bello vedervi, stare qui con voi. E comunque continua la curva degli intellettuali, la curva sud degli intellettuali, Francesco The Beautiful Mind. No, curva sud no, però. Vabbè, sì, comunque... curva sud, sì. Sei da Lazio, e viva la matematica. Mannaggia. È da mocca da Lazio. Veramente, cioè, cose stato. Che si scoprono all'ultima puntata, come e nelle poi non belle si dice. Serie. Dai, era una curva logaritmica. E Dulcis in sì. fondo, oggi con emozione e un certo, no? certo fomento che presentiamo con lei che è stata fino ad oggi voce cantante di questa nostra, anche recitante, qualcuno forse lo ricorderà, ma in una parola Julie! Ciao Julie! Ciao ciao! Ma benvenuta! E le abbiamo alzato il microfono per far grande capire Julie. Che c'è una certa importanza. Comunque questa partecipazione era da tanto che glielo chiedevamo, niente, mi magno tutte le parole possibili. Scusate, non corre. Perché? Perché c'è l'hype, ragazzi, c'è l'hype. E poi siamo sette. Forse siamo Iella sta sette non a lo tavola. So, non lo so, i sette sono i sacramenti. No, erano 13. I vizi capitali. Ci abbiamo un Avengers. La formazione cattolica che comunque aiuta sempre in radio. E niente, non mi ragazzi, sette è un numero bellissimo. Ve lo posso è un numero bellissimo. Ce lo può dire anche Julie oggi che il sette è un numero forte, non lo so. Ce lo puoi dire? Ce lo confermi, non è che Julie mo caccia sul sette, c'hai una cosa? Come astrologa direi che allora, sette è tipo la metà dei 12 segni più uno, quindi pensateci. Cioè se l'è cavata così con nonchalance. Comunque 7 è anche un numero sexy, perché è la somma di due primi. Sei sexy tu quando dici numero, comunque continui a essere. No, stavolta no. Un po' l'ha detto. Risentiremo il mogliolone. Risentiremo il mogliolone. Comunque, io dicevo, l'hype, l'agitazione di cui sopra nasce dal fatto che siamo alla vigilia o quasi di un evento che tende ad essere, diciamo, il nostro punto di arrivo, il nostro ho ricominciato, scusa. Ma non rimette l'applauso però. No, non rimetto l'applauso. In una parola, il saggio di fine anno. Detto anche quindi, anniversaggio. Quindi esatto, anniversaggio perché sono 10 anni. E grazie a chi noi questa cosa la sappiamo e la continuiamo a ricordare? Sui numeri, ovviamente. Colui che i numeri li maneggia e che quindi è decano. Non perché ce decano la faccio, ragazzi. 10 anni, troppi giusto? Ricordi, non ce la faccio. Decano della scuola di musica, Francesco. Non è vero. Sì. Ma in realtà ce ne stanno altri due qui che non lo vogliono dire. Fanno i vaghi. Fanno i vaghi. No, non facciamo i vaghi. Io intanto solamente il no, volevo solo tanto, insomma, di questo tema si parlerà lungamente nel corso di questa nostra bella e lunga puntata. Intanto e ho qui sotto mano i primi messaggi che arrivano sul nostro canale Telegram. Ricordiamo a tutte e a tutti che se volete iscrivervi e chiacchierare con noi potete scaricare Telegram se non lo avete ancora fatto e cercarci Radio Forte 100 Cell Avengers. C'è Giorgino che già scrive: evviva, c'è Julie, anche lei ci sa fare con i numeri. Grande Giorgino, grande Julie, grande. Sempre sul pezzo Giorgino, on the piece. Che emozione, ragazzi. Giulia, ti abbiamo corteggiata troppo. Ricordiamo che Giorgino appunto ci ha, è stato nominato poco fa perché era un po' tanto che non andavamo in onda, quindi volevamo essere sicuri che tutto fosse in ordine. Di solito una cosa che capita è che la radio sia morta e, o momentaneamente non disponibile, quindi grazie Giorgino, anche se probabilmente andava già tutto a posto, non hai dovuto resettare come al solito il server e niente, con questo vi dico, con questa hype ovviamente è inutile avere un tema, no? Cioè fuorviante, superfluo, lo sappiamo già, poi tra l'altro parleremo solo del fatto, quindi che c'è solo nostalgicamente, spegnete i telefoni, solo nostalgicamente riferiti al saggio che non sai di aver fatto, è un 100 celle Marcord itinerante per tutta la puntata, e anche chi si tirava indietro purtroppo non può tirarsi indietro da questo primo pezzo che mettiamo, che è quella cosa là, riporta subito la proprio giornalista faziosa Gabri Grubi all'inizio, perché tutto ebbe inizio nella così nella lampante carriera. Tutto, hai 10 anni, tu devi introdurre la prima canzone che fece Musica d'Insieme. Sì. Nel lontano, nel lontano 2000. Oddio, che stai per mettere? Non sei te che dici cose, tranquilla. Musica, musica, siamo in radio, tutto a posto. Ma lasciamo parlare la e musica. E quindi va. Lasciamo parlare il lunedì cinema. Ambe. Sì, niente proprio di meno. Ascoltando Radio Forte, e questo è 100 celle Avengers. Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, non guasta mai. 100 celle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta su Radio Forte, nella giornata che precede quella che precede quella che precede il saggio di musica che si svolgerà, che precisione, è incredibile, martedì martedì 4 di luglio. E diffidate da locandine stampate male con scritto domenica 4 luglio, perché quello è un giorno che non esiste. A me hanno detto il 29 febbraio o il 32 di maggio, dici. Ah, no, che a me è arrivata voce dai maestri che addirittura c'era una locandina 24. Datata 20 boh, luglio, 24 cioè, luglio 24 luglio è partito tutto, sì, me lo ricordo anch'io. Ma quelle erano le prove, quella era una prova così a schizzo, 24 luglio, okay. Così, perché probabilmente era 24 febbraio, non lo so, sì, esatto. Perché si è rigiocato un copia e incolla del saggio di metà anno, ma questo si perdona, ecco. Dopodiché il giorno della settimana confonde la gente, perché d'estate, cioè Roma si svuota di domenica, si riempie di infrasettimana, insomma non puoi toppare questo, ma mica per dire che c'è un presente qua che l'ha fatto. Io l'avevo corretta, è stata però una questione, esatto, è una questione più diciamo postale. E quindi mo sulle locandine ci stanno le pecette. Quindi mo ci stanno, esatto, le pecette. Beh, semplicemente diffidate, tante le locandine saranno solo qui al forte. Mm-hmm. E come al solito la campagna pubblicitaria comincia quando il forte è chiuso. E siamo, è un successone, ma perché il saggio si, come si dice, si nutre di se stesso. Di, sì, sì, già c'è un sacco di, diciamo, di hype, di autosufficienti, di interessi, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto che oggi invece nella, diciamo, nel nostro scheletro di puntata si è deciso che io mi debba lamentare per primo, cioè sì. Devo in qualche modo giustificare anche il fatto che non siamo andati in onda, così per dire, perché che cazzo che hai fatto, che ti ha impedito di andare in onda nelle scorse settimane di giugno, quando tutti stanno lì a non fare niente e cioè, ascoltare la radio sarebbe proprio il non plus ultra, perché non ci hai intrattenuto a giugno? Eravamo niente, devo mettere comunque una premessa, fondo, ma cioè, questo rientra quindi legalmente nella serie, diciamo, Traumi Fonici, che ha una rubrica, una sigla istituzionale, e quindi io vai, maestro, guardavo vai. Betta nel dire sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo, sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E quest'oggi a Traumi Fonici andiamo a ripercorrere il giugno della AMG, no, il giugno mio con AMG che mi mette in mezzo a queste cose. Allora, diciamo che non ho fatto in tempo a lamentarmi un pochino della permanenza nell'allestimento dei campionati del mondo di Taekwondo che si svolgevano al Foro Italico, evento che mi aveva garantito una bronzatura invidiabile in solo alcune parti del corpo. E, cioè, era proprio carbone, ma poi bianco, cioè, vabbè, nel senso, questa cosa mi poteva anche stare bene, però diciamo mi lamentavo, oh, lamentate, e quindi vieni spostato da un'altra parte, e nel frattempo il Taekwondo è crollato. Qualcuno l'avrà letto nella cronaca di Roma, io sono stato salvato da questo fatto, di essere caduto dalla padella nella brace, perché non è del Taekwondo che parliamo oggi a Traumi Fonici, la rubrica che fa lamentare i fonici, bensì dell'aeroporto, l'aeroporto di Pratica di Mare, dove io sono stato trasferito per festeggiare insieme a tutti voi il centenario dell'aeronautica, lo volevo dire bene, ci tenevo molto, militare italiana. Non so italiana. Se l'hai detto bene. Dici che non l'ho detto bene. Non ne so così sicuro. Dobbiamo riascoltare la moviola. No, si omette, si dice aeronautica, quindi pensavi che non lo sapevo. Ma dici, noi ci prendiamo un caffè mentre racconti. è stato sicuramente ascrivibile fra i traumi fonici, in quanto andava a confrontare, diciamo, il nostro mondo con quello dell'estremo, ecco. Quando si studia acustica si impara che la cosa che più o meno produce più dB decibel al mondo. Grazie, è l'aereo. Siamo su, no, vabbè, scusate, io c'è Francesco in effetti che ha spiegato cose ben più difficili. Sta di fatto che la cosa in natura, o diciamo al mondo, che produce più rumore in assoluto è proprio in accademia l'aereo a reazione. E noi eravamo quindi in quel di Pratica di Mare a diciamo impreziosire l'esibizione di questi aerei a reazione con la sonorizzazione di cui siamo capaci. Perché, se posso, è bella sta cosa che sicuramente te l'hanno insegnato nel corso, che era la cosa più rumorosa che potevi trovare, però ti sei ritrovato proprio a lavorarci, cioè avresti mai pensato. Esatto, infatti la prima risposta di un fonico, diciamo, con il senno è: non possiamo contrastare il suono di un aereo a reazione, produce 135 dB, come facciamo? E invece? Niente, monti 6 torri di impianto di quello bello, diciamo, ciotto, senza dire, diciamo, marche, ma comunque diciamo quello che si fa 50 metri con line array per i grossi concerti, ma lo, certo, spari a manetta e vedrai che ce la farai molto bene. Yeah. Queste 6 torrette. Ma lo spari verso i piloti? Lo spari verso il pubblico che sta lì a guardare i piloti che fanno appunto le acrobazie. Conoscete ovviamente le frecce di colore, ma tanti altri. Adesso sta aspirando il triplano del Barone Rosso, il biplano di... insomma, tutte l'aereo le glorie dell'aeronautica, ovviamente fondata durante il ventennio. Quindi c'è una festa, un tripudio dentro alla quale mi sentivo molto a mio agio. Questa cosa sta andando troppo bene per essere un trauma fonico. Infatti non è fonico fino adesso, il trauma è più politico. Però poi diventa fonico nel momento in cui tu dove stai messo per via, diciamo, di un cablaggio che è stato fatto della situazione, per cui tu controlli queste sei torri che, non vi ho detto, sono a 150 metri l'una dall'altra lungo una pista di chilometri di decollo, no, cioè lungo un chilometro di una pista che è lunga di più. Sta di fatto che tu, quando devi andare da una torre all'altra per sistemare una cosa, ah sì, vado a sistemare nella torre 2, sei un po' come quello che in Australia dice sì, mo vado da un amico mio, da un mio vicino di casa. E quindi gli interventi erano un po', come dire, dinamici. Dovevi fare sto chilometro lanciato, abbassa tutte le torri, alza tutte le torri, chiudi tutte le torri. Cioè, oggigiorno, voglio dire, comunque per gli amanti anche della fonia, che esistono modi per controllare sei cazzo di torri che producono a suono a distanza, però non l'abbiamo adottato in quel caso. E quindi, l'unico punto dove potevi essere determinante per la festa dell'aeronautica era proprio lì, vicino all'impianto, che produceva l'impianto. No, non ce lo fai, sentire. No, hai ragione, no. Scusa, no, io volevo tanto, ma fondamentalmente è un po' una cosa... cioè, è difficile distinguerlo dagli altri, comunque... Madonna! Questo è l'aereo che sta dietro l'impianto. Dietro l'impianto, perché davanti c'è sta la gente che guarda l'aereo che fa le acrobazie, ma lo speaker che dice queste sono le frecce tricolori, è vergogna, che fa col suo microfono dopo che ha detto queste sono, lo mette verso l'aereo e cosa produce quindi l'impianto? Oh, Madonna. Uguale. E te dove stai? Tra l'aereo e l'impianto che riproduce l'aereo. Ora, quindi tutto questo serve per farti amare di più quello che sentirai durante il saggio. Il tuo lavoro. Diciamo sì, diciamo che il discorso che magari avete sentito fare ad alcuni fonici, io mi proteggo con i tappi, non ha proprio senso. Questo, cioè, è proprio un altro campionato. Detto ciò, io voglio concludere Traumi Fonici con un pezzo che solo per il suo inizio mi fa ripensare a Pratica di Mare, per il resto piace a tutti quanti. Conscious Club. Long flight. Long flight. It's my first night in Berlin, and I want to dance. Where should I go? Well, there's Berghain, or you can go to the Sisyphus. Actually, I read about this place, the Conscious Club. Oh, the Conscious Club! Mit Joe Dart! Wolfpack is the house band! Yeah, yeah, Wolfpack. That's it. Do you know how to get there? Actually, I do, but it's very, very complicated. Welcome to the Conscious Club. Conscious Club. The Conscious Club. Conscious Club. Special cat. Get inside and say I feel, ask you for The Conscious Club is under new management. Please enter your old CC ID as we transition databases. ¿Estás escuchando Radio Fuerte, mijito? Cento celle aventi. Oh, ma! Sempre in diretta su Radio Forte, 100 celle Avengers. Mi sa che è già il momento di prendere taccuino e matita. Avete studiato? Quanta giusto? Soddisfazione oggi. Aia. Mamma mia. L'avete vista la prova di matematica, la seconda prova del liceo? No, non l'ha vista c'è. Nessuno. Io certo. Seguo sempre molto tutti. Questa cosa. Sì, io non sì, ho vista sì. Manco quando l'ho fatta. Lo dico. Era uscito Pascoli. È uscito Pascoli, sì, allo scientifico. Bene, e allora oggi io in realtà ho tipo una sorta di doppia rubrica, perché ho fatto felice Virginia, dato che l'autore, la mia principale fonte di ispirazione in realtà è un grande fan dei Beatles, quindi ha dedicato praticamente i tre quarti dei suoi capitoli ai Beatles, e parlerò del misterioso accordo di A Hard Day's Night, quindi mi merito forse la sigla dei Beatles a sto punto. Sì. Incredibile, sigla! John, disse amico Paul, noi gireremo il mondo con il pop. A quel punto Paul disse non lo so, Ringo, Paul e George, non capite che presto certamente noi saremo più famosi di Gesù. Più famosi di Gesù. E allora, vedo già Virginia con gli occhi a cuoricino. Sono io. Già bravo. Esatto. Allora, ovviamente, era anche per te questo applauso, però. Anche oggi andrò a braccio sul libro, quindi abbiate pietà se vedete tipo bloccarmi in certe parti. Comunque cominciamo subito perché c'è un bel po' di cose da dire. Ci sono un bel po' di cose da dire. Allora, alla British Library di Londra è esposta una cartolina di auguri col disegno di un trenino. Nell'aprile 1964 qualcuno l'aveva spedita a casa di un bambino in occasione del suo primo compleanno. Quel bambino si chiamava Julian e suo padre era... John! Era John Lennon, esattamente. Pochi giorni dopo, la mattina del 16 aprile, la giornalista Maureen Cleave, spero di averla pronunciata bene, arrivò sul luogo di un appuntamento fissato, niente meno, indovinate un po', che con John Lennon. I due si trovarono in un punto concordato di Londra, presero insieme un taxi e indicarono l'autista alla destinazione, gli Studios di Abbey Road. Durante il tragitto John canticchiò a Maureen una canzone che aveva scritto pochi giorni prima e che avrebbero registrato quella mattina stessa insieme a Paul, George e Ringo. Si era appuntato il testo sul retro, appunto proprio della cartolina di buon compleanno ricevuta dal figlio. Ma no! Ma, sì. Ma invece di mandargli gli auguri ha scritto... già. Ma dai, è una brutta John. Persona, io lo dico sempre. Ma io sono d'accordo sulla paternità, ecco. Erano quasi arrivati quando la giornalista gli indicò il verso But when I get home to you I find my tiredness is true and I feel alright. Non scorre bene John, cambialo. Ha capito? Cioè pure i giornalisti gli consigliano i Beatles. Vabbè. Il musicista ci pensò su qualche istante, poi si fece prestare una penna e modificò le parole e scrisse But when I get home to you I'll find the things that you will do will make me feel alright. Ok. Questo è il testo che c'è, insomma, attualmente nella canzone. Allora, quando poi arrivarono appunto agli Studios, dove c'erano tutti gli altri, insomma, dopo che John raggiunse gli altri, Lester e Martin spiegarono ai ragazzi qual era l'obiettivo numero uno della sessione. Dai, però, cioè, cioè trovare un suono spettacolare appunto per l'inizio della canzone, cioè di Hard Day's Night, che tra l'altro doveva essere anche, questo penso lo sai anche tu, Virgi, la colonna sonora appunto del film Hard Day's Night. Esattamente, certo. Allora, i Beatles lavorarono in tutto meno di 3 ore, quindi furono registrate 9 versioni, 5 delle quali complete, e in tutto comparve questo accordo iniziale nella sua forma definitiva. Sulla prima traccia del nastro fu registrata la chitarra acustica di John, quindi una Gibson J160E, il basso Hofner 501 di Paul e la batteria di Ringo. Sulla seconda le voci di John e Paul, sulla terza le loro voci raddoppiate e alcune percussioni aggiuntive. Sulla quarta la Rickenbacker di George, la chitarra a 12 corde, e lo Steinway Grand Piano di George Martin. L'enigma di A Hard Day's Night è proprio legato appunto al suo accordo introduttivo. Come fecero i Beatles a ottenerlo? Diciamo, chiaramente il problema può essere formulato così: quali sono le note che ciascuno dei Beatles ha suonato per trovare, diciamo, quell'amalgama sonora? E diciamo, su questo problema sono stati versati fiumi di inchiostro, incredibile a dirsi, e può a ragione essere considerato uno dei grandi misteri del rock and roll. È vero. Esatto. Insomma, molti hanno tentato di risolvere la questione semplicemente ascoltando l'accordo sul disco e provando a riprodurlo, ma si tratta, insomma, di un'armonia insolita, abbastanza difficile da classificare. Quindi è facile avvicinarsi all'originale, però ovviamente non basta, bisognerebbe trovare proprio appunto le note esatte. Insomma, tanti ci hanno provato. È da citare, insomma, il musicologo Walter Everett, anzi i musicologi Walter Everett, Alan Pollack e Dominic Pedler, che addirittura Dominic Pedler. Come mettere in difficoltà? Spero. Edgar Allan Pollack. Edgar Allan Pollack. Gli appunti, scusa. Scrivi. Era di Ricky Martin e via. Scrivi, metta a verbale. Stiamo studiando. Edgar Allan Pollack. Ok, in particolare Pedler ha addirittura dedicato alla questione una quarantina di pagine del suo imponente volume, Pedler 2001, nelle quali appunto ha proposto 21 trascrizioni dell'accordo. Oddio, quindi vabbè. Comunque abbiamo un problema a noi, cioè noi a cui piacciono i Beatles. Sì. Abbiamo un grave problema. Ma non glielo potevano chiedere? Infatti io volevo dire. Adesso ci arrivo, ci arrivo. Applauso a Betta. Abbiate pazienza, mo ci arriviamo. Si salvo problemi. Spoiler di Betta. Okay. Volevano aprire se ci riusciva. Allora, diciamo, secondo questa ricostruzione, George Harrison e John Lennon eseguirono il medesimo accordo, cioè un Fa maggiore con una nona aggiunta, un Fad 9, che viene detto anche accordo Mu. Questo l'ho scoperto anch'io. Accordo Mu. Accordo Mu chord. Mu. Mu chord. No, non lo sapevo. Perché mi guardi e cerchi un pezzo? Non lo so. Annuisco in radio. Se la persona ci capisce più di musica. Cari ascoltatori, io sto teorico, annuendo. C'è una cosa Mu, una cosa il Mu bemolle. Il Mu chord. Vabbè, in giapponese Mu vuol dire vuoto. Ma non è che vabbè, niente. MU, se, non lo so, Mu chord, però vabbè. Vai avanti. Ok. Ok, quindi questo è qua. Poi, diciamo, Paul McCartney avrebbe suonato un re e George Martin un accordo formato da re, sol, re 2, sol 2 e re 3, quindi con re sull'ottava successiva. Dice, adesso giustamente voi vi siete chiesti, ma è possibile che nessuno abbia mai chiesto, mai pensato di risolvere la questione? Ho una teoria. Chiedendo la cosa ai Beatles. La mia teoria è che non se lo ricordavano. Poi vai. Allora, attenzione, qualcuno lo ha fatto davvero, perché in una chat online, pensate, organizzata sul sito di Yahoo il 15 febbraio del 2001, quindi erano vivi in tre. Era, esatto, la domanda fu posta al chitarrista del gruppo pochi mesi prima della sua scomparsa. Quindi dice, Mr. Harrison, quali note c'erano nell'accordo iniziale di A Hard Day's Night? E Harrison risponde, sulla 12 corde è un accordo di Fa maggiore con un sol in cima, ma se volete avere il quadro completo dovete chiedere a Paul le note del basso. E se passano già a palla. E quindi, capito, io non voglio sapere, tu chiedi a quello, no, io non c'è, scarica a barile. Se non sbaglio il basso è il sol lì, però. Non so. No. Sì, no, in realtà poi vengono trovate anche altre note, quindi vabbè, non si capisce. Allora, fermi tutti, attenzione. Un accordo di Fa maggiore con un sol in cima è esattamente l'accordo di non aggiunto ipotizzato da Pedler, cioè il famoso mu chord, ok. Ma allora a questo punto, con la conferma appunto di George Harrison, si poteva stare tranquilli? Ma secondo voi si può stare tranquilli quando c'è di mezzo la matematica? Si può stare tranquilli? Certo. E allora no, e allora mandiamola questa sigla di Hilbert. Vabbè. Tradimento così. Gancio. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma, e poi magari non a tutti interessa. Interessa a tutti? Siete sicuri? Ma sì, stiamo a parlare dei Beatles. Sì. Beh, oddio, adesso i Beatles, diciamo che un po'. No. Allora, si mettono in background. Allora, perché. Aspetta, di questa una cosa, avete letto il pezzo di Paul McCartney? Devi parlare sul microfono. Sì, io eccomi. Io stavo a parlare con Francesco. Invasione. No, vabbè, volevo un momento dire questa cosa dell'intelligenza artificiale e Beatles. Perché siccome è matematica, vabbè, questo colpo. Vai. Paul McCartney ha annunciato una reunion virtuale. Ah, sì. E praticamente hanno estrapolato la voce di John Lennon da una canzone che però, cioè, non hanno fatto il nome della canzone, ma si pensa che sia la canzone uscita nel 1978 intitolata Now and Then. Mm-hmm. E niente, questo volevo dire. Io pure avevo una cosa da dire. I Beatles sono sempre bravi. Avevo un'ipotesi sull'accordo di Hard Day's Night. Ma che... prego. Che cos'era questa cosa? Siamo d'accordo pressoché su tutto, ma talvolta divergiamo. Per esempio sulle parolacce, ognun dice quella che gli va. Merda. Capito? Cioè, ognuno ha fatto l'accordo che gli pareva. Questa era l'ipotesi. Adesso questa immagine dei Beatles che girano per lo studio e cantando questa filastrocca battendosi le mani. Perfettamente verosimile. Tipo, comunque non vedo l'ora di ascoltarla sta canzone. Io l'ho sentita. Questa canzone non è nuova. Non è roba. No, non fa i Beatles. Hanno fatto il deepfake. Hanno preso la voce di John Lennon. Ma tu sei di parte. Non vale. Cioè, lo so, raga. Stai rischiando parecchio. Scusa. Va bene, torniamo alla matematica. Torna un po' ai numeri. Ridiamo all'attenzione della classe. Che stavamo a dire? Allora, che stavamo a dire? L'inquirice, che c'entra la matematica? Beh, la matematica ha un gran bel mezzo per cercare di determinare questo accordo, che è la trasformata di Fourier. Ve la ricordate la trasformata di Fourier? Sì, questo nome me lo ricordo. Il nome, sì. Per chi si fosse perso qualche puntata fa, ne parlai, diciamo, nella puntata dedicata appunto alla musica 8-bit. Sì, adesso interroga. In combinazione con la dotta betta, quindi insomma non ci ritorno, risentirevi il podcast, perché insomma parlare della trasformata di Fourier, se no stiamo qua fino a domani mattina e ci abbiamo un saggio, quindi altrimenti l'avrei fatto, se no vabbè. Dai, che tomo fa le solo prove. Perché c'è un saggio. Allora, che cosa fa dico solo questo, ovviamente. Che cosa fa la trasformata di Fourier? Fondamentalmente la trasformata di Fourier scompone un suono nelle sue armoniche di base, quindi fondamentalmente un suono è composto da tante armoniche tutte belle mescolate insieme. La trasformata di Fourier prende e le scompone. Praticamente, fondamentalmente, se noi prendiamo la forma d'onda di un frammento sonoro e appunto ci applichiamo la trasformata di Fourier, ricaviamo le singole onde pure delle armoniche costitutive. E quindi praticamente abbiamo una tabella con tutte queste armoniche che costituiscono, diciamo, il suono. Io la visualizzo, sì, vai. Tu la visualizzi. In realtà si visualizza perché c'è appunto i programmi che ti visualizzano come si chiama? Lo spettrogramma. Tra l'altro, Cancione sull'ordine del nerd. Tra l'altro, sullo spettrogramma ci sono, diciamo, degli aneddoti carini, perché appunto Aphex Twin, il famoso Aphex Twin, si è divertito a creare una canzone in cui praticamente, se tu te la visualizzi sopra uno spettrogramma, a un certo punto compare una faccetta sorridente e dici come... risata, esatto. Che ridere, molto che divertente ridere. Questa cosa, sì. Anche un po' ciao inquietante. Alexa, anche un po' inquietante. Ciao Iron Man. E dici come ha fatto? Niente, semplicemente ha fatto la cosa al contrario, cioè lui ha costruito prima la forma d'onda e poi da quello si è ricavata, diciamo, la funzione dell'armonica, e da lì ha composto il pezzo, e quindi praticamente sempre tramite, diciamo, la trasformata di Fourier. Tra l'altro, e questa è la cosa che potete vedere solo voi perché non ci sono immagini radio, questo è il titolo della canzone. Non lo vediamo neanche noi. Io sono molto miope. Posso dire che è una sequenza di simboli astrusi. Semplicemente è una cosa che penso non sono neanche io in grado di leggere ormai. E numeri. Semplicemente si chiama Complex Mathematical Formula, oppure Equation Formula si chiama nel disco, viene pronunciato il titolo della canzone. Wow. Va bene. E tra l'altro, altro, diciamo, chi pillola sul, diciamo, sulla trasforma di Fourier è Shazam. Shazam, la famosissima applicazione che tutti conoscete, funziona proprio con la trasformata di Fourier. Nel senso che Shazam funziona calcolando la trasformata di Fourier del segnale, quindi scompone il segnale. Il database di Shazam è formato ogni singola canzone dalle armoniche fondamentali della canzone, quindi diciamo le canzoni sono epurate di tutte quelle armoniche che non servono per riconoscere, per determinare unicamente quella canzone, e quindi quando, quando fai il match con una del database ti individua qual è la canzone, diciamo. Oh, penserò sempre a Fourier da adesso, io no, da ora in applauso poi. A Fourier. Francesco, ma voi dite, dice, stiamo a parlare dei Beatles, perché torniamo a parlare di Beatles, quindi insomma andiamo a riparlare di una vecchia conoscenza di cui avevo parlato, non so se vi ricordate, sempre sulla puntata che ho dedicato ai Beatles, quella del calcolo probabilistico della canzone di John Lennon, esatto, o di Paul McCartney, diciamo, se una canzone era di John Lennon o di Paul McCartney, yes. Mi sono cartato i congiuntivi. Allora, ed è appunto il professor Jason Brown. Che cosa ha fatto questo Jason Brown? Lui praticamente ha applicato la trasformata di Fourier al famigerato accordo appunto di Hard Day's Night, quindi ottenendo insomma dei risultati abbastanza sorprendenti, perché ha ricavato in tutto tipo 29.375 frequenze diverse, quindi insomma erano un po' tantine, e quindi lui come ha fatto a eliminare il superfluo? Lui diciamo è partito dall'assunto che i suoni non fondamentali dovessero essere presenti a volumi più bassi, e quindi praticamente ha preso in considerazione solo 48 frequenze, quindi delle 29.000 ne ha tagliate insomma un pochino. E lui insomma è raggiunto alla conclusione che praticamente John Lennon suonava un La, che era una cosa un po' strana perché suonava quindi una nota sola, era un po' strano. George Harrison suonava bene, però la suonava bene. sembravano più accorti. George Harrison suonava un Re, La, Sol, La. Scusate che me ne sono scritte super piccole, non vedo. Do, Re, Sol. Ok. McCartney, Paul McCartney suonava un Re. No, scusate, il Re era McCartney, ecco, infatti non mi tornavano. E là partì, ok, il Re McCartney suonava un Re. Aspetta, tutto molto chiaro, Francia. Vai. Anche noi a casa, con il pianoforte, stiamo facendo. State suonando. John Lennon, Sol, La. George Martin suonava un Mi, Sol, Do, quindi un Do rivolto. Okay. Diciamo, sull'alto e sul basso suonava un Re, Fa. Che però insomma okay. Sta diventando sempre più complesso. Diciamo la conclusione appunto del professor Brown non combacia né con la congettura di Peller, che era quello che aveva scritto il super trattato che vi dicevo prima, e soprattutto cosa ancora più grave, non combaciava con quanto dichiarava George Harrison, che proprio cioè, dice ma che comunque avete trovato? Ci può stare. E inoltre appunto come dicevo sembra un po' inverosimile John Lennon abbia suonato una nota sola, un po' strano insomma, quindi quindi diciamo dov'è che ha sbagliato, diciamo la svolta arriva nel 2014 quando un altro professore, Kevin Houston dell'Università di Leeds, diciamo rifà questa cosa qui e ok vabbè, e praticamente diciamo la conclusione è stata che praticamente l'errore è stato tagliare le frequenze basse, quindi lui rianalizzando con un altro software queste frequenze le ha ritrovate diciamo tutte quante. Ma i fondi glieli davano? No, noi non glieli. Cose che passione. Potevi chiedere ai Beatles e tu invece ci impieghi tutte. No, non glieli davano. Vabbè, tu, dai, okay. Per scontato il fatto che i Beatles ti rispondevano bene, non è scontato. Ok, va bene, taglio tutto quello che dovevo dire, quindi arrivo proprio direttamente alla fine, perché in realtà vi volevo parlare anche di un'altra canzone dei Beatles, ma è una cosa molto corta, che è A Day in the Life, che in realtà fa esattamente il contrario, cioè parte da una situazione molto caotica per poi arrivare ad un suono più preciso, più nitido. E diciamo, su questa canzone il matematico inglese Ben Orlin, autore del blog Math with Bad Drawings, ha scritto questa cosa qui, che è una cosa molto carina, quindi vi leggo questa e poi vi lascio. Allora, vedi, questo 1-2, il caos e l'accordo, è il miglior esempio che io conosca di un tema semplice e importantissimo, come l'ordine si nasconda dietro il disordine, come la struttura emerga dalla confusione, come il sereno erompa dalla nebbia. Uno dei passaggi sonori più stridenti e inquietanti del catalogo dei Beatles dà origine a uno dei più puri ed elementari. Il crescendo, selvaggio, dissonante e beffardamente complesso, è la realtà. L'accordo finale, puro, strutturato e definitivo, è la matematica. L'esperienza che provi ascoltando... A Day in the Life è scattato. Esattamente ciò che dovrebbe essere apprendere la matematica. Per prima cosa, quasi finito, dovresti affrontare il brulicante disordine della realtà in tutta la sua tentacolare incoerenza. Poi dovresti provare una sensazione di vento caldo quando la matematica spazia via i dettagli non pertinenti e gli elementi di distrazione, lasciando soltanto una visione chiara e unica. Quindi la matematica è l'accordo sepolto nella cacofonia, la musica nascosta nel caos. Ma come fa? Yeah, beccate questi speech. Bravo. Io aggiungerei che la combo, la combo matematica e Beatles è mortifera, nel c'ha senso stesa. Che proprio veramente c'è veramente così tanta roba che è un sacco però. Vabbè, ci ha dedicato tutti questi capitoli. E niente, che vi lascio con il pezzo che ho scelto. E dato che ho parlato di matematica e di Beatles, ci sono i Beatles, ma in parte. Perché questo è un pezzo dei Beatallica, un gruppo, no, basta, vado via. Un gruppo geniale che ha fatto, vi dico solo questo, il Grey Album, cioè nel senso hanno mischiato il black e il pure sentito. E quindi vi lascio con questa. Back grazie. In the Blacknet in the USA. Io voglio bene a tutti questi ragazzi e a tutta la redazione. Non capisco perché ogni volta c'è qualcosa che mi deve levare un pezzetto di affetto per qualcuno di noi. Era troppo. Se no, poi è troppo zucchero, capito? È troppo zucchero. Dopo posso l'altaspedesse un po', capito? Ho sentito che hai detto che ti piaceva. Io? Sì. Ma prima, quando? Mentre era tutto spento? Non è mai accaduta questa cosa, ho solo sofferto e mi sono iniziato a grattare il braccio. Registrazioni. Quindi possiamo andare avanti nel prossimo argomento, tanto oggi non parlerò di Beatles e niente. Prego, maestro. E quindi riprendiamo il bando della matassola. Non avevo capito che c'era un dissing verso Franci dei Beautiful Mind. Non verso Franci, sono cose verso che questi dovete, tizi. Dovreste vedere fra di voi, perché oggi il clima, come già vi avevo detto, era questo. E siccome questa, secondo me, l'altra volta avevo messa la... cioè, diciamo che risveglia, ma non quanto quest'altra. Questa mi mette più ansia. Ok, sempre tratta più o meno dallo stesso diciamo ambient musicale degli anni Ottanta. Ci avviciniamo al saggio di fine anno. Col tanto sudore. Non è domenica 4 luglio, ma è martedì 4 luglio che si svolgeranno le esibizioni e della scuola di musica d'insieme e dei solisti e degli accompagnatori dei solisti ciechi, no, dei solisti accompagnati. Abbiamo delle ciechi. Posso anticipare, spoilerare che ci saranno delle new entry. Vi ricordate quando c'era qualche solista e si portava l'amico, certo, con l'accompagnatore? Certo. Succederà anche questo, incredibile, al saggio di fine anno. Ok, basta. Sto già stancato questo hype. È stato bello, è stato bello. E quindi e tornerà Biascicone? Tornerà anche Biascicone. Avevo intenzione poi di aprire una parentesi in merito. Comunque sicuramente non mancherà anche lui di partecipare. Negli ultimi, diciamo, giorni si sono stabiliti un po' gli ultimi compiti di accompagnamento. E infatti dopo la puntata Biascicone deve provare un pezzo con un'allieva a caso. La nostra ascoltatrice numero uno, Manu. Grande Manu. Ti aspetto, Manu, non ti addormentare. Ancora palesata, mentre ascolti Centocelle Avengers su Radio Forte. Forse sta schiacciando un pisolino prima delle prove. Ancora non si è fatta viva? Vabbè, niente prove. Si sta allenando sicuramente. Va bene, ti viene bene lo stesso, Manu, non ti preoccupare. Detto ciò, abbiamo dei contributi, credo. Sì. Abbiamo, come ai vecchi tempi, quando... no? Quando c'era anche una sigla. Tipo, ammetto. Vogliamo mandare la sigla? In sottofondo, certo. No? Così. Sigla. Ma sigla. Giusto. Dello Squatros. Jam e Mirko. Ed è proprio qui che cominciate a pagare. Non siete in competizione l'uno contro l'altra. Ripeto, non siete in competizione l'uno contro l'altra. Il mio nome è Jam. Bello rock and roll. Io perfetto così. Quanto canto qui per voi. Per pensare. Sono una cantante. Lo so. Il mio nome è Jenny. Tu penserai in me. Sono sempre un'emozione. Solo competizione violenta. È per questo che sei qui, eh? Oh. Certo. Diva. Che c'è? Mi sono scordata le fettine panate. E da un ascoltatore che ci segue sempre. Sì. Abbiamo un contributo appena arrivato, mi sembra. Sì, no? C'ho tipo, c'ho tipo le pistole puntate, per dire, questa volta sbrigati, quindi sarò molto veloce e coinciso. Il 4 luglio c'è il saggio, quindi non c'è la rivoluzione, come diceva Cristina D'Avena. Cristina D'Avena dice cazzate, quindi c'è il saggio. E Oscar. No, era la stella della Senna. La stella della Senna, vero. Vabbè. No, stop qua, se non finisco. Allora, parafrasando. sigla. Allora, parafrasando Elrond, sapete tutti chi è Elrond, sì, ovviamente. Io guardo a destra perché là lo sanno, io guardo di qua, vabbè, ok. Io guardo a destra, non si dice il radio perché non si capisce. Vabbè, ok. Il signore degli elfi. Il signore degli Franci elfi. Guarda a destra. Io ero lì nel lontano gennaio del 2014, quando insomma l'allora maestro di batteria Alessandro, che saluto, mi diede il flyer di MD, ragazzi, c'era il flyer, fatto in stile televideo, c'era una roba, raga, che se lo ritrovo, quello è un cimelio. Sto spegni già, la TV, no. Era una roba, mi sa che era quello, era spegni la TV, esatto. E vabbè, aneddoti, vado velocemente. Il nostro bassista, che è stato già citato nel primo anno, Gabriele Gatto, che gli abbiamo fatto suonare, penso, delle robe facili, ma lui tipo un giorno ci ha confessato di amare il Mathcore, parlando con Ale il Bad, ci ha fatto sentire un pezzo incredibile. Matematica, hardcore. Esatto, salutiamo anche lui. Ecco che... perché gli piaceva tanto. Salutiamo anche lui, so che poi nell'anno successivo dovrebbe essere pure entrato in conservatorio. So, sì, vabbè, sì, era molto promettente, lui. Stava qui con noi, ma in fondo si sapeva, esatto, che... Salutiamo anche Viviana e Francesca, che erano rispettivamente l'altra bassista e la batterista che suonavano con noi il primo anno. E poi vabbè, altri aneddoti storici, vabbè, lo sbrocco di Dario con Angela durante le prove, va bene, salutiamo anche Dario e soprattutto la mia, diciamo, maniera di voler... Francesca, ma veramente stai facendo? Già. La mia maniera di insegnare la matematica, chiedendo sempre al maestro di turno quante battute sono i pezzi, soprattutto Daniele, questo se la ricorda, va bene, gli avrò fatto tutti imparare i numeri così. E vabbè, diciamo, che dire, insomma, la scuola di musica mi ha dato la possibilità poi di salire, oltre nei saggi di musica, insomma, di salire anche qualche volta su un palco con l'altro gruppo con cui suono, quindi mi ha dato veramente tanto da questo punto di vista. Il momento più bello, e vabbè, io direi Wasting Love. Quando sono salito, voi non ve ne eravate accorti, ma mi tremavano veramente le gambe, perché stavo suonando una cosa a cui tenevo tanto e sentivo di essere veramente... Sei stato proprio bravo, il ma che più pippa là sopra, veramente. Ok, e concludo lasciandoci, perché fai questo e continui dopo 10 anni a fare questa cosa qui. E qui lascio le parole a una citazione di un grande film, che è The Commitments, e quindi lui ve lo spiegherà meglio di me. Riguardando al passato, che cosa ti ha insegnato l'esperienza fatta col gruppo The Commitments? Beh, è una domanda difficile, Terry, ma tu lo sai, come dico sempre io. We skip the light fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of sick, but the crowd called out for more. Concetto molto profondo, Jimmy. A che vuol dire? A me venga un colpo se lo so, Terry. E questo, insomma, per chi ha visto il film. Se non avete visto The Commitments, vedetelo. Veramente. Io non l'ho visto. Veramente, dobbiamo veramente, fare un... veramente bello. No, continua pure, Virgi, non ti preoccupare. Jurassic Park l'hai visto 30 anni dopo, ricordatelo. Non è la stessa cosa. Io comunque adesso lascio la parola agli altri, se vogliono fare qualche aneddoto o qualche cosa. Esatto, no? Esatto. Avete aneddoti, avete qualcosa da dire? Mi sembra che Viola c'aveva qualcosa da raccontare. No, ho scritto, ragazzi, è off topic. Ho scritto una poesia, vi ho scritto. Grande, Viola, questo è commovente. L'ho accettata così, l'avevo detto, vabbè, poi, vabbè. Lasciatemi leggere. E niente, quindi, ok. Con il sole o con l'ombrello, stare con voi è stato sempre bello. Radio Forte è uno spasso come quando Virgin suona il basso. Mi fa stare sulle spine quando canto una canzone, il maestro mi dà lezioni di dizione. Wow. Con Fra e Betta non perdi una puntata e neanche la retta. Via via passa questo tempo e mi rincuoro con Julie, che con l'oroscopo ti dice: sì, è il momento di buttarti al largo, senza salvagente e senza remi, nuota pure in un oceano di arcobaleni. Con Gabrina mi diverto e non mi sento mai in difetto. Sono felice, è arrivata l'estate, trasporterò da un luogo all'altro raccogliendo esperienze che mi nutrano come mi nutrite voi con le vostre storie incredibili. Vi porterò nel cuore aspettando settembre per ricominciare insieme. Speriamo da tre che è sempre meglio che cominciare da qualcosa che non c'è. Ragazzi, per voi. Grazie. Ogni tanto ritorna la maestra Viola e vi do le filastrocche per i bambini. Ma noi siamo i tuoi bambini. Certo. Noi siamo dei bambini, cioè, sì. Non so voi. Non si era notato. Piangono, vabbè. Sono gelosi. Ma sì, molto, diciamo, è commovente ricordare tutti questi anni passati. Tu, Viola, non sono 10, ma no, non sono 10, però abbastanza. Sì, sono, c'era ancora il maestro di Sciullo, che è stato colui che salutiamo anche lui, che io già partivo sconfitto, come al mio solito. Vabbè, non mi hai preso una chitarra in mano, e gli ho detto: no, ma vieni, non ti preoccupare. E mi ha fatto, sono 6 anni incredibile, mi ha fatto suonare la chitarra, e lo ringrazierò per sempre. grande, ecco. Infatti salutiamo tutti quanti veramente i maestri che hanno attraversato la scuola, ma anche gli allievi. Sì. E beh, insomma ragazzi, 10 anni sono tanti e, personalmente pure appartengo alla vecchia scuola, come appunto Franci diceva, e di aneddoti particolari non me ne vengono in mente in questo momento, o meglio sorvoliamo quelli che ricordo e, sì, eh. Sì, c'è qualcuno che fa il vago di ancora qua, perché io la prima volta che vi ho visto vi ho visto che sono venuta da spettatrice, comunque eravate bellissimi, la prima fan, sprizzavate proprio gioia a tutti i pori, ho detto no, ma io, cioè, che no, ci faccio, sì, da quest'altra parte? Devo, ma io devo sprizzare lì con loro. No, io ricordo come Franci l'emozione, veramente le mani che tremavano, le gambe che tremavano, tutto mamma tremava. Io ricordo le mie prime ansie con la musica, veramente passate ovviamente, e niente, io sono 7 anni che ci sto e veramente lacrimoni. A me m'avete convinto col pezzo dei Spice Girls. Lì ho detto voglio fare parte del vostro gruppo. E non l'abbiamo ancora fatto. Sei innamorata di noi. Sì. Avevi perfettamente ragione. Io sono entrata solo qualche anno fa, però mi ricordo in particolare una frase di Virgi che, insomma, ricordo sempre con tenerezza. Questa è Sparta! quello dopo. Però prima, quando stava cercando di spiegarmi cos'era MD, perché io non sapevo un cavolo, giustamente, mi disse: ma guarda, alla fine siamo un gruppo di amici che suonano insieme. Eh sì, quello è. Ma perché in radio è quello è vero. Fu molto carino. Però suoniamo, nel senso, ricordatevi sempre che comunque suoniamo tutti quanti, tutti bene. E quindi, per dimostrare questa cosa, io ho preparato un contributo. Posso andare dirci direttamente, o il maestro ha qualcosa da dire con i lacrimoni? No, no, no, io no, no. No, no. Qui quei abbiamo lacrimoni, cioè, prego, prego. No, dico, nel maestro abbiamo un esempio di allievo che in 10 anni ha fatto giro e è arrivato a essere maestro. Ha fatto, quindi, la carriera. Tanto faccio l'applauso. È passato di livello. Nice. I bei tempi in cui era il bidello. È stato promosso, sì, ha fatto carriera. È vero, ha fatto proprio... E niente, quindi io volevo celebrare questo anniversario, questi 10 anni, con poche cose in realtà che ho ritrovato, ma insomma di anni sparsi un po' qua e un po' là, contributi vari di prove che abbiamo fatto nel corso di questi anni e contributi vari anche di cavolate dette. E a questo punto io manderei questo contributo. Vai. Voglio fare sembra di stare a Tuorì, la facciamo col laboratorio. Say goodbyes, pro China, try to steal your mind's elation. And leave the girl from Sweden, dream ourselves a screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. Mi piace la musica dance. Sicuro stanno a fare questa cosa. Ci sono lì, ieri mi ha ripreso la scimmia dei ricappi, così 5-6 pezzi. Così sei registrato, lo sai? Benissimo. No, giusto, vero. Fate buoni se potete, tutto gesto è vanità. C'è una fisarmonica, che è? Ma davvero? Però fino a lì era venuta bene, a parte il pezzo che ho detto io, è venuto bene prima. No, era la versione precedente è venuta meglio. Sì, no, lo va solo. È una strofa sola. Però vabbè, raga, comunque dai, si è apposta un po' le cose. Ma... Dillo registrato. Comunque giracchia. Però da fumento. Comunque lo odio. No. Questi batteristi cacciaroni. Cella Avengers alle 6:01, se n'è andata la prima ora di divertimento, come direbbe il maestro. Accipicchia! Dopo questo momento a Marcord, per cui ringraziamo Virginia per la realizzazione. Grazie. Ci tenevo anche a ringraziare Giorgino che ci scrive sulla chat di Telegram. Ho controllato che il server stesse funzionando poco fa. Grande Giorgino, che ci fai funzionare le cose. Grande Giorgio. Direi che a questo punto è il momento del nerd. Maestro, vogliamo lanciare la sigla? Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso... Nato potete tutto c'è l'Avengers, c'è una rubrica tutta che si chiama Nerdland. Come l'ha chiamato? Nerdland! Grazie Nerdland, se c'è te c'è l'Avengers. Buonasera piccoli nerd, siete ancora indecisi se guardare o no la terza stagione di The Witcher? Il nerd non vuole darvi consigli su questo, ma se il protagonista ha deciso di lasciare la serie perché gli faceva troppo schifo, beh, fatevi una domanda e datevi una risposta. Infatti io ti stavo per dire di che? Appunto, no, non lo fare, per favore. Ok, ok. Mentre i nuovi narratori riescono a rovinare storie bellissime già scritte e già perfette come sono, e ogni riferimento alle ultime due stagioni di Game of Thrones non è assolutamente casuale, noi parleremo di vecchie glorie intramontabili. Oddio, mi sono persa. Che per fortuna nessuno è riuscito a rovinare. Parleremo di Doom, Erita Anghet, direte voi, ne abbiamo parlate tante di quelle volte. Ma pare che il nostro caro vecchio first person shooter sia come tutti gli altri classici, che come diceva Calvino, sono tali perché non hanno ancora finito di dire quello che hanno da dire. Maestra Viola, sono brava? Bravissimissima. Senza riverbero, però va bene uguale. Tu metti il riverbero su Calvino. Qualche giorno fa ho scoperto l'ennesimo trivia della colonna sonora di Doom, che neanche io conoscevo. Parliamo di Doom 4, videogioco di genere sparatutto in prima persona, inizialmente pensato come reboot dell'omonima serie e come seguito di Doom 3, pubblicato nel 2004, sviluppato ancora dalla casa originale del primo gioco del 93, cioè la ID Software. Il gioco viene pubblicato stavolta dalla Bethesda, la grande casa degli Elder Scrolls, Morrowind, Oblivion, Skyrim, per capisse, ed esce con tutta la potenza di fuoco del loro motore nel 2016. Durante la produzione, i goliardici produttori della colonna sonora ebbero un'idea di quelle che ti vengono in mente nella pausa caffè dopo pranzo in ufficio. Immaginate la scena. Ehi Matt, ma sai che ho scoperto questo software che genera gli spettrogrammi dalla musica? A Kevin, e dai sempre con queste stronzate, un cucchiaino di zucchero? E che diavolo è uno spettrogramma? Uno spettrogramma è una visualizzazione grafica della musica. Si fa visualizzando le frequenze del brano audio usando uno spettrografo a partire dall'intensità del suono in funzione di tempo e frequenza. Se tu applichi la trasformata di Fourier, ma to che palle, mica vorrei riattaccare il pippone matematico! Ma bamba, veramente? Però, aspetta, stai pensando quello che sto pensando io? Da dove è uscito quel ridicolo fuso rodà? A parte quello, se prendessimo delle immagini mezzo sataniche, tipo 666, pentacoli, e ne tirassimo fuori un pezzo per la colonna sonora del gioco nuovo, dai, lo chiamiamo Cyber Demon. ma sì, ma tanto chi se ne accorge? E fu così, più o meno, che uscì Cyber Demon, che sentite in sottofondo, e che il giorno dopo l'uscita del gioco, la Bethesda finì al centro di una shitstorm di proporzioni bibliche per accuse di satanismo, con gli spettrogrammi riportanti pentacoli e 666 contenuti in questo pezzo su tutti i giornali. Breve storia triste. E oh, quando programmi videogiochi sottovaluti sempre il tempo medio che i tuoi clienti hanno a disposizione da perdere. Non è comunque la prima volta che gli sviluppatori di Doom si sono lanciati in queste imprese da pausa caffè goliardica. Vuoi per voglia di scherzare, vuoi per via della povertà, che non gli permetteva di produrre più di tanto dei nuovi suoni da inserire nei giochi, utilizzarono delle librerie per i sound effect del primo Doom. Ve lo ricordate il suono che faceva Limp Demon? Dai, quel mostro marrone con le borchie sul petto, le spalle, le ginocchia, e te chiedevi come cavolo ha dormito sto coso. Che lanciava i fuochi. Esatto. Vedo che te lo ricordi. Ma sai che cos'era? Beh, il verso dell'imp incazzato che stava per passare un brutto quarto d'ora a causa della tua motosega, tra l'altro marchettona dichiarata all'Armata delle Tenebre, perché è proprio la motosega di Ash. No. Esatto, era quello di un altro essere che invece stava per passare un ottimo quarto d'ora. Si trattava infatti del richiamo d'amore di un cammello. Non ci credete? Maestro, primo contributo. No! Ah, non è questo. Sbagliato. Era il cammello. Sembrava un cammello. Pulo. Scusate, pull up. L'avevo fatto bene. L'avevo fatto simile. Esatto. E abbiamo scoperto che sei un cammello. Esatto, è una cosa terrificante. Si sente però qui che è un cammello, poverino. Sembra poi che sta soffrendo, invece no. Invece no. Come ultima impresa da pausa caffè. Lo lasciamo come sottofondo. Mi piacerebbe un pochetto. Vabbè, mi piacerebbe dire una cosa sui cammelli in amore, ma non è il momento. Mi vabbè, questo lo rimettiamo sulla esatto. posta del cuore, l'amore del cammello. Sì, esatto. Come ultima impresa da pausa caffè degli sviluppatori di Doom, vi svelerò infine il segreto dietro la voce satanica del boss finale del gioco originale. Il boss finale, la famosa Icon of Sin, era una sorta di teschio di capra con una finestra sul cervello esposto che cominciava a sputare una serie di mostri a caso, potenzialmente all'infinito. All'apparizione della Icon of Sin si sentiva una cosa. Chi era? Sono sicura di averla sentita anche quel pezzo di Beatles. Scusa. Avete detto addio ai timpani? Sì, un pochino sì. Comunque, sembrava pesante oggi. Sembrava un po' un messaggio satanico, no? Però, come molti musicisti ci insegnano, dai Beatles a Elio e le Storie Tese, è possibile inserire messaggi nei pezzi facendo sentire le voci al contrario. Nel nostro caso il messaggio era di John Romero, cofondatore della id Software e lead designer di Doom, Quake e Wolfenstein 3D, che pensò bene di mettere all'interno della Icon of Sin come vero boss finale la sua testa impalata e di usare quel messaggio che in realtà reso al contrario diceva «To win the game you must kill me, John Romero», cioè «Per vincere il gioco devi uccidere me, John Romero». Così un pochino si capisce. Non era una puntata da gioia questa? No, vabbè, ho fatto il... Certo, mi hai spiegato una cosa, veramente. Sì, ma non lo sapevi? No, cioè da ragazzino tu spari a sta cosa, c'è sta la testa di uno sì. che ti dice, vabbè, sarà un programmatore, sarà qualcuno licenziato, non lo so. Comunque, cioè, il mostro finale era effettivamente... Sì, infatti, sembrava qualcuno a cui volessero molto male, invece era John Romero, forse gli volevano molto male. Magari pagava poco, gli sviluppatori, non lo so. Chissà, si sono vendicati un po', anche insomma, perché poi per finire il gioco dovevi spappolare il cervello di Romero a forza di fucili e motoseghe. Decisamente quindi, si sono vendicati. Vabbè, contento lui, buona camicia a tutti, insomma. Visto quante vene tiro fuori dal cappello? Il nostro spazio finisce qui. Vi lascio con un pezzo che non ha a che fare con Doom, visto che ne abbiamo già fatti sentire molti in tutte le salse. Ne approfitto per tirare fuori una chicca di un altro sparatutto storico dello stesso stile. Born to be wild. Non so se l'avete riconosciuto, ma era proprio lui, Duke Nukem. Il duca. Non quel duca. Si tratta di un pezzo mai usato, ma realmente commissionato per il gioco, niente po' di meno che ai Megadeth. A voi, il Duke Nukem Team. Vai, maestro. contrario. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 celle Avenger, è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. E di nuovo in voce su Radio Forte 100 Celle Avengers, mentre Virginia mi fa i gesti proprio poco prima di entrare in voce, mandandomi in cappella totale. Perché hai mandato lo stacchetto di Ariel e io ho appena ricevuto una foto di Ariel che ci sta ascoltando, quindi devo solo dire una cosa. Patatina! Voglio vedere che utile. Fa. A proposito di cose utili, abbiamo appena ascoltato appunto un pezzo tratto dalla colonna sonora di Duke Nukem e volevo aggiungere da buon nerd che Duke Nukem era il primo gioco che aggiungeva, diciamo per dirla in termini cartesiani, l'asse delle Z al normale 3D, perché cioè il 3D era la rivoluzione, Wolf 3D il primo gioco. Poi dovete che su Duke Nukem potevi mirare in alto, potevi sparare, questo è molto importante, importa a molti. Questa non la sapevo neanche io. E niente, vabbè, questo perché uno ci deve giocare, ragazzi. Cioè, voi siete dei nerd che pensavo fosse Quake. Come no? Mi dispiace. Era Duke Nukem. Duke Nukem è il primo. Poi l'hai offesi tutti, cioè, non lo so. Ma non è vero. Aspetto anche smentite sul canale Telegram di Radio Forte 100 Celle Avengers. Dopodiché è il momento. Cosa aspetti più? È il momento di aspettare Mogol, cioè di quella rubrica che si occupa dei testi delle canzoni, in poche parole delle parole, in poche parole delle parole. Sigla. Dammi tre. Scendo tutto al bar, sembro tutto anche a. Ho speso due K su una ska. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Poi si gira dal contrario. Giro poi quando va. Come parla? Sole, cuore, amore. Parole. Una parola ancora. E bentornati aspettando Mogol, come abbiamo detto la rubrica che tratta i testi delle canzoni, la difficoltà nello scrivere testi delle canzoni, mettere le emozioni in parole, le parole in poesia, la poesia in prosa, insomma scrivere appunto testi. In questo caso siamo andati a curare un fenomeno che abbiamo diciamo riscontrato nel passato, nel presente, nel futuro, e che è quello del riempitivo, l'abbiamo chiamato così in redazione, tutti d'accordo, il riempitivo in metrica, cioè quel momento in cui tu hai un pezzo che ormai è dato, una melodia che è data e quindi la stai riempiendo con i tuoi diciamo versi, anche se ovviamente sappiamo tutti che molti insomma fanno nascere tutto dai versi e poi dopo, però insomma diciamo che c'è la melodia che fa da struttura e da diciamo quasi in posizione metrica, salvo appunto poi vari artisti che si distinguono proprio perché vanno fuori in metrica, tipo Gino Paoli, tipo De Gregori, quelli che ti giuro che lo farò, però no, insomma Paoli. Al di là di quello, al De di là Gregori di... Al di là di quello ci sono appunto le canzonette a cui siamo abituati, che spesso hanno un, diciamo, un motivo che tu vai a riempire e che a volte non riempi perché non c'avevi il testo e ci metti un la la la, na na na, ta ta ta, ta ta ta. Ora, è un po' una cosa opinabile dire se un la la la, un na na na è una cosa voluta, non voluta. Il cliente artista ti dirà sempre che ha pensato, era proprio la sua poetica. Ma comunque cerchiamo di intanto definire cosa non è. Cioè non è... Questo è strutturale, questo è proprio un pezzo fatto, no? Così come... E va bene. Vai così. Ok, e questo è... Fino alle 7 così come anche... stesso valore, voi entrate in un'altra ottica, in un altro, cioè pensi che diciamo inglobi in un altro lustro di secolo per e natura, più o meno la cosa è uguale, no? E quasi riferisce più a un signor presidente, c'è il certificato medico che lo attesta. Quindi, è uno sbarbolo. Ogni opposizione da parte avversa non trova terreno fertile. Da da da da. Così, a buffo senza motivo. E quindi, cioè, che cos'è che l'ha suscitato questa ricerca nella nostra redazione tutti insieme? L'uscita di questo pezzo che comunque fa scalpore, almeno per me ancora mi fanno effetto questi duetti vecchio-nuovo, così penso che Viola gli piace sto pezzo. Scriverei una poesia. Per chi non l'avesse capito, era la voce delle voci. Mina. È Mina, con Tananè. No, con Blanco. Ah, con Blanco, santo. Lo so, perché Dio. A me piace Tananè. Applauso quindi. A Viola che mi prende bello la toppa sulla, Tananai, sulla musica Nina. Giovane. Vabbè, anche qui siamo al confine. Io sto facendo un anche po' una classifica uguali, tra diciamo, i pezzi che hanno richiesto questa cosa. Anche se Mina, appunto, secondo me è la portatrice di un grande sapere che poi diciamo, stato tramandato nei lustri della discografia italiana e che quindi poi ha dato input anche a gente tipo insospettabile. Cioè, no, non parlo tanto di. Amico di Francesco. Ma anche roba più impegnata, no? Più impegnata, Sergio. Tiziano. Più pesata, sì. Come osi dire, questo sia più impegnato. Cioè uno che comunque sa scrivere. Scrive lui. Cioè, qua gli si può perdonare. Però poi solo che tutto questo flusso di pensieri, bellissimo, immagini che tutti abbiamo assimilato, col cambio di registro, calde, non è bellissimo. Cioè, io mi sto già sentendo male. Mi ricordi che rivivo in tante cose. Quali cose? Dimmi. Ma come? Cioè, questo comincia a essere in classifica più alto come. Perché diciamo che sta a barà. Cioè, secondo me c'è stato tutto un entourage di Tiziano Ferro che ha detto: oh, t'abbiamo scritta fino a qua e poi non ci manca l'ultima vacanza. Mo vediamo, hanno fatto vari tentativi e sarà cioè, vari, e che poi tutti bocciati alla fine. Vabbè, questa è la fuffa della musica. Dicevo che comunque la maestra che poi va a vincere questa nostra classifica incredibile di riempitivi è qualcuno che aveva dato prima, diciamo, un po' più di nicchia, la conoscono non so quanti di noi, questa canzone impegnata nel senso della relazione che questa parla è, guardami in faccia quando no. Viola, ormai mai deluso. Ci spiega tutto, ascoltate il testo, si tratta di noi, quindi è una tematica sentita. Il ricordo di noi, cioè. Non sono cose che puoi. Musica, farne via via. Non puoi farne melodia. Quindi, che te puoi inventare per descrivere il pensiero? No! Aspetta. Oh! Cioè si tratta di noi e te mi dici ti ripeto secondo me Mietta va a vincere con questo pezzo, ma non con questo pezzo, con un altro pezzo che ve l'ha fatta sotto il naso e non vi siete resi conto, e quindi io vi condanno a questo. Aspettavo questo. Questo è il riempitivo che va a vincere, ha vinto sempre questo pezzo nei nostri cuori. Aria, questa è per te. Chiude aspettando Mogol il duetto Amedeo Minghi e Mietta. Ma non ce lo vogliamo mica sentire tutto, mi pare, no? C'è stava un. Sì, era fallo, dovevamo fare il laboratorio. No, no, perché noi abbiamo un altro clima nel nostro, no? Nel nostro vivere, un altro clima che non so più come farvi capire che è questo. E mi devi. No, niente, non me lo puoi fare questo favore, è colpa dimmi mia. Si è rotto tutto. Questo. Volevo dire che adesso chiudiamo ascoltando un pezzo del saggio che non ricordavi di aver fatto, che fa parte anche, diciamo, di. Ricordati di te come eri prima. Io metterei un'altra musica. Mettiamo tutti dei mischioni, ma adesso vai. Questo finisce in il tentativo di un coro abbastanza fornito di gente che andava a fare Uptown Funk nel lontano, ditemi l'anno mentre io la trovo. 2019, credo. Incredibile, con lo stesso verve di Rocky che si prepara per il combattimento. Io chiedo venia. This ain't a high school, Michelle Pfeiffer, the white gold. This rapper done hood girls and hood girls train masterpiece. Silent, wild, split the city. Got chucks on, we sail around. I gotta kiss myself, so pretty. Too hot, hot down. Cheer alleluia, girl, see cheer alleluia. Cause I'm done fine, can't give it to you. Cause I'm done fine, can't give it to you. Cause I'm done fine, can't give it to you. Started to get out of where we just run. Don't believe me, just watch. Come on! Ah! Don't believe me, just watch. Wait a minute. For my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, got a stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show out. Smarter than a fresh ass skippy. I'm too hot, hot down. For the police and a fireman, I'm too hot, hot down. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hallelujah, girl, see it's your hallelujah. Girl, see it's your hallelujah. Cause I'm done fine, can't give it to you. Cause I'm done fine, can't give it to you. Cause I'm done fine, can't give it to you. Saturday night, I'm gonna be the spot. Don't believe me, just watch. Come on! Don't believe me, just watch. Before we leave, let me tell you something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then flown it. If you're freaky, then own it. Don't break a vibe, come show me. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then flown it. When Saturday night, I bring you the spot. Don't believe me, just watch. Come on! In diretta su Radio Forte Fuma Centocelle Avengers alle 18:28 di sabato 1 luglio. È con orgoglio che fa rima con luglio che diamo il via a una nuova rubrica e diamo anche un senso alla presenza qui di Giulì, che fino a ora abbiamo sommersa con le nostre rubriche, e come al solito, come facciamo con le matricole, l'abbiamo messa all'ultimo, così con l'ansia. Veramente lei stava a metà, solo che siamo un po' allungati. Vabbè, per bullismo radiofonico. E comunque, poi basta con questo fatto di essere sette, che devo usare pure il mignolo per aprire i microfoni. È difficile. E infatti Giulia è esattamente canale numero 7, te lo ricordo, Betta, però passiamo la parola a questo punto. alle retrovie, perché si è messa vicino a Franci. Prego. Ciao Giulie, buonasera. Guarda, ciao. Basta che dici ciao e già applauso. Felice. Senti, ma mo c'è la sigla. Allora, grande, grande così. Allora, sì, scusate, tu, entri istituzionalmente già con una sigla, e quindi grande, questo, cioè, però è utile, come dice la giornalista faziosa Gabri Grubbi, spiegare sempre. Allora, ah, sì. Giulia è la nostra esperta di Astri, lo posso dire Astri? Si può dire Astri in radio? Lo dico male, però è la nostra esperta di Astri, che in questo momento, cioè, per quanto riguarda noi che stiamo sempre con quell'ansia di cui parlavo prima, cioè, ci può rivelare se ci sono dei segni favoriti sul palco, al saggio di musica, se l'allineamento dei pianeti in quel giorno per caso dovesse essere pericoloso o meno. Insomma, abbiamo chiamato gli esperti perché non sapevamo cosa pensare, come sarebbe andato questo saggio. Siamo preoccupati. Nonostante che sia leggermente coinvolta anche Giulia è coinvolta nel saggio, ma lei da professionista si distacca e porta avanti la sua rubrica, che appunto tratta questo, e c'ha diciamo la sigla, che però si deve assolutamente lanciare da sola. Ok, allora intanto vi voglio solo dire che ho deciso di non trattare esattamente questo tema, perché preferisco dirlo dopo. Perché secondo me c'è qualcosa che non va, raga. Vabbè, Sennò poi la gente si condiziona. Ah, ok, Plot twist. Giusto. Quindi andrà tutto male, a quanto ho capito. Ce lo dice dopo. Esatto, poi ne parliamo nella prossima puntata. Ah, ecco. Però postuma, intanto postuma. Lanciamo questa rubrica dell'astrolocca. Sigla. Sigla. Noi non sapevamo a che distanza dalle stelle e cosa erano fatte. Quindi era più che scusabile credere nell'astrologia. Ma oggi è ridicolo. In December, every sign has a soul mode. I was in love with the Sagittarius. See the emotions of the nuclear. Ecco, allora, benvenuta. Grazie, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie mille di avermi invitato oggi. Sono molto emozionata e è un onore di partecipare a questa puntata. Oh. Erano mesi che doveva accadere. Dai. Ma infatti adesso le stelle si sono allineate e vai oggi così, faccio la radio. Allora, siccome è fine anno, siamo tutti stanchi, abbiamo accumulato tanto stress di quest'anno di lavoro, ho pensato a dare qualche consigli per appunto rilassarsi bene e trovare le energie, trovare le motivazioni, o per chi deve continuare a lavorare, oppure avere tante energie per godersi veramente l'estate. Che fantastico. Comunque ci vuole. Grazie Gigi. Ottimo. Okay. Allora, come devo dire una cosa, che il mio intervento di oggi si basa molto su dei video che fa un tipo fighissimo, un astrologo su YouTube, che si chiama Astrology Guy. Andatelo a sentire, purtroppo è solo in inglese, però grande, Giulie, che è molto cita, nice. cita le fonti da sì, dai, come da buona ladra, bravissima. E quindi allora vi dirò i diversi segni, i diversi elementi come riferimento. Cioè, praticamente voi dovrete poi a casa calcolare il vostro tema astrale, così sapete dove avete il sole, in quale segno ce l'avete, dove avete la luna, l'ascendente e Marte. E nel caso di questo tema di oggi sono questi, diciamo, i compiti a casa. Gli elementi okay. Importanti. Io non quindi trovo manco i calzini. Cioè, io sono sole in Capricorno o la luna in Pesci, quindi devo ascoltare quello del Capricorno o quello del Pesci, ok? Dai. Ah, ok, ho capito. Ok, allora vado. I segni di fuoco, che sono Leone, Ariete e Sagittario, praticamente quello che dovete fare è un po' di sport ogni mattina, anche solo 20 minuti volendo, basta che vi parte, cioè, e non è un mio problema. Cuore. Sappiamo che non è un mio problema. Deve come dice un ragazzo, un fumettista, il cuore deve defibrillare. Defibrillare. Ah, sì, così. Esatto, sì. Proprio così deve fare. Allora, per questi segni di fuoco ho preso come esempio Madonna che è del leone e Lady Gaga che è dell'ariete. E infatti loro, se vedete pure cosa fanno sul palco, cioè sono molto così molto pazzi, energiche, perché loro hanno capito che bisogna, uno, sfogarsi, due, fare attività fisica vi permette di riequilibrare le vostre energie, di liberare tutta l'aggressività e lo stress e di accendere la vostra energia creativa. Quindi mi raccomando, tutte le mattine 20 minuti, così diciamo è proprio il flusso di energia che si cambia, quindi magari siete presi male, siete nervosi, lo fate e diventa tutto più semplice, più gradevole. Durante la giornata potete gestire le frustrazioni meglio, essere di un umore migliore e ovviamente anche la salute migliora. Vai, una per ora siamo salvi da questa cosa della ginnastica. No, ma infatti qualcuno di noi è dei segni... No, non nessuno di noi, allora, nessuno dei presenti ha questi segni che hai detto. Tutti sul divano noi. Allora, di sul divano, fuoco, esatto, qua non c'è nessuno. Ovviamente c'è qualche ascendente, qualche luna, ma non entro nei particolari, sennò poi... Siamo qua quattro ore. Facciamo le stelle. Allora, mi raccomando, segni di fuoco, se non state bene, non rimanete sul divano a fare un cazzo, cioè non troppo tempo. Eccola! No, perché questa è una trappola per voi, cioè voi dovete muovere il corpo, se no ci avete il rischio di deprimervi. Vabbè, ma non ci interessa perché nessuno... A posto. Vabbè, ma noi siamo qui per i nostri... radio telespettatori. Certo, infatti, nessuno è qui per il proprio segno, chiaramente. Ma Manuele, che segno sei tu? Infatti. Vai Giulia, scusa. No, figurati. Ecco, allora, per darvi motivazione, segni di fuoco, dovete ricordarvi cosa vi fa sentire vivo. Quindi, per l'ariete, quello sono le nuove avventure. Ogni cosa che fate per la prima volta, voi vi dovete mettere in quel mood, in quel lo stato mentale e iniziare nuove cose, e è questo che vi dà la motivazione. Invece il leone, ricordatevi di come siete presi bene quando vi innamorate, è tutto bellissimo e non è solo di persone ma anche di cosa, magari vi innamorate di una canzone, è quell'energia lì che dovete andare a cercare. Il sagittario, lui deve prendere rischio, cioè lui sa che trova la sua motivazione nell'essere nell'eccezione, no? Se tutti falliscono, hanno difficoltà a fare una cosa, il sagittario lo fa con quella motivazione che lui invece spaccherà il culo e ce la può fare e, allora, via così. E via così. Invece i segni di terra, che sono toro, capricorno e vergine, vai come Lizzo, che c'ha il sole in toro e la luna in vergine. Loro praticamente non fanno altro che lavorare e preoccuparsi. Troppe giusto. Responsabilità. Quindi che devono fare? Mettono una lista, una to-do list di tutte le cose da fare, solo le cose importanti, non tutte le cose da fare nel mondo. E poi vi fate un piano. Oggi faccio questo, domani questo. Quindi all'inizio della giornata non arrivate già con mille ansia delle milioni di cose. No, già sapete le qualche cose che dovete fare, le fate e alla fine giornata così vi sentite tranquilli perché quelle cose che avevate deciso le avete fatto. Qui due capricorni su tre si sono guardati con compassione. Infatti, perché siamo malati. Mi sento un po' capricorno. Ma anche Manu mi sente il capricorno, scusate, no, perché ha scritto sulla chat. Che ha scritto? Questo che cos'è? Il capricorno? Ariete, Manu. Ah, scusa, Ariete. Sì, sì, era prima. Pensavo fosse un capricorno. Manu, sport. Invece, sport. Che cosa vi fa sentire vivo? I segni di terra. Di terra. Allora, il toro, sperimentare la naturale bellezza della vita con qualcuno che volete bene. Quindi o andare in natura, o stare a casa, o stare con gli amici, però basta che state facendo una cosa bella, mangiando una cosa buona, ascoltando musica bella, con amici, con il vostro cane che volete bene un sacco, cioè insomma è proprio, voi avete bisogno di una connessione profonda per ricaricarvi. Invece la Vergine, ha bisogno di vedere i risultati del proprio lavoro, quindi di vedere che proprio gli sforzi e la devozione che mette nelle cose poi gli permette di raggiungere i propri obiettivi. E questo è lo stato mentale che vi dovete ricordare per darvi motivazione a fare le cose. Allora, Capricorno che siamo, quindi eccoli, io, Suano e Virginia, 7, sì. Voi dovete usare, cioè noi dobbiamo usare le nostre conoscenze e strumenti acquisiti grazie al nostro duro lavoro per ridare alle persone a chi vogliamo bene. Quindi è proprio la condivisione, cioè non solo lavorare, perché possiamo essere un po' ossessionati su quello, ma anche proprio prendere il tempo di ridare, di condividere quei frutti che abbiamo preso con gli altri. Capito? Ma questa fregatura, capito? Però ah no, è tipo fare la radio. Tipo fare la radio, bravissima. Poi abbiamo i segni d'aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. Qua abbiamo come esempio di famous people John Lennon. Questo l'ho messo per Virginia, grazie, che aveva il sole in Bilancia e la luna in Acquario. Nato il mio stesso giorno, John Lennon. Grandissimo, fra. Allora, voi avete la mente che sta sempre lavorando, i segni d'aria, piena di milioni di pensieri e di idee diversi allo stesso momento, in qualsiasi momento. Che dovete fare? Dovete prendere tempo per voi, per respirare, e in questo vi aiuta tantissimo la meditazione. Basta pure 10 minuti al giorno, praticamente è una cosa che vi aiuterà non proprio a silenziare la mente, perché è impossibile, i pensieri ci sono e la mente fa quello, la mente pensa, però vi dovete proprio distaccare dai pensieri, non intripparvi nei pensieri e seguirli. Cioè trovare una cosa tipo la meditazione che vi permette di stare nel momento presente, vedere i pensieri ma solo guardarli passare. Proprio è una cosa che vi permette di rilassarvi e di poi di concentrarvi veramente su quello che è importante, perché per i segni d'aria purtroppo c'è molta confusione, perché appunto ci sono troppi pensieri. E quindi concentrandovi sul respiro vi aiutate a connettervi con la vostra pace interna e vi rilassate. Nice. Acqua. No, adesso dico i segni. Allora, Gemelli, che è la nostra Viola. Sì. Quello che devi fare, che devo fare è conoscere nuove persone. Anche per cambiare idee con le altre persone. No, aspetta, questa è truccata. Scusa, Giulia, devo dirla, perché io so che tu e Viola avete fatto una cosa. Non so se per radio si può dire, ma cioè, casca troppo. Stiamo facendo un po' proprio di pratica. Siamo delle buone boomer. Esplorazione social. Attraverso. Sì, vabbè, raga, cioè, ci stiamo provando. No, vabbè, non c'è nulla di male quando uno si iscrive su. Su. Vabbè. Quello lì. Comunque sì, è molto importante. Scrive una canzone. Tinder love, Tinder love. Il Tinder love. Tinder. Comunque qualsiasi cosa vi può aiutare a conoscere nuove persone. Va bene. E scambiare idee. E anche, ma non solo, cioè soprattutto non solo essere, non essere serio, ridere, okay, e non fregarvene un cazzo delle cose. Va bene. Cioè i Gemelli si devono ricordare questo, perché sennò vanno in tilt. Bilancia, quindi abbiamo Francesco qua della Bilancia. Anche la mia mamma. Anche la mamma di Gabri, la salutiamo. Anche la mia sista. Eugenia, mia sorella. Salutiamo. Ciao, anche Eugenia. Eugenia. Allora, voi dovete usare il vostro intelletto e la vostra compassione per risolvere le cause grandi. Cioè voi avete proprio bisogno di avere un effetto positivo sulla vita degli altri. Vai Franci, la vostra... insegna la matematica al mondo. Esatto. Esattamente. Così avranno compassione di me. E poi siccome vi piace un sacco parlare, proprio una cosa di diffondere tutto quest'amore, tutte le soluzioni della vita che avete trovato. Ai numeri. Invece Acquari, voi dovete fare nuovi progetti dove potete mettere tutta la vostra, il vostro spirito innovativo e il pensiero libero. Cioè voi ricordatevi Acquari che siete unici, creativi e ribelli, e abbiamo bisogno di gente come voi. Allora, i segni d'acqua, che sono Scorpione, Cancro e Pesci. Abbiamo qua come esempio Kurt Cobain, che aveva il sole in Pesci e la luna in Cancro. Allora, i segni d'acqua, voi dovete ascoltare la musica giusta con le persone giuste. E vai! Le persone con cui voi vi potete sentire veramente voi stessi. Però non mi rimette i Megadeth, detto. Tutto sto bene. Continua così. Sì, allora, segni d'acqua hanno tendenza a isolarsi a volte un po' troppo, perché hanno bisogno di non essere contaminato dalle energie degli altri. Ma dai. Invece per quello è importante, soprattutto se siete un po' stressati, stare con persone dove c'è un bel scambio di energia, dove vi sentite bene. Perché se siete da soli avete tendenza poi, se è troppo tempo, a andare un po' nella presa male. Quanto è vero! Oh mamma Giulia, io sono Pesci, ricordati che... Sì sì, sto attento a cosa dico. Non arriva a sapere, insomma. Allora, segni d'acqua, dovete ridere, ballare, sempre quindi con bella musica e mangiare cibo buono con amici buoni. Ricordatevi di non prendere le cose, non prendere la vita troppo sul serio, sennò la vita vi mangia. E anche ricordatevi che siete amati, almeno da qualcuno siete amati. Allora, il Cancro, voi dovete connettere e esprimere i sentimenti attraverso l'arte, quindi musica, danza, poesia, quello che è, ma vi dovete esprimere e buttare le emozioni fuori. Scorpione, come la nostra Betta, cioè vi dovete proprio liberare dalle pesantezze emotive. Cioè, esistono, ci sono, le viviamo e poi le cacciamo via, le lasciamo andare. L'ha detto bene. Esatto, perché lo Scorpione ha tendenza magari a trattenere un po' le cose. E ricordatevi che vi potete lasciarvi andare, essere leggero e divertirvi. Manu, e vai. Scusate, è arrivata Manu, la nostra ascoltatrice. Manu, numero uno, incredibile. Così in radio, attenzione. Oggi veramente grandi ospiti. Tanto che sale, scusami. Attenta a Cerbero, Manuela. Prosegui. L'Ariete l'abbiamo già detto, siamo allo Scorpione. Abbiamo finito lo Scorpione. Siamo a ok. Siamo adesso ai pesci. I pesci, quindi Gabri. Segni d'aria. D'acqua. Scusate, segni d'acqua. Lo squattro elementos. I pesci sono un po' rincoglioniti. Sì, sì. Assolutamente. Sì. Io la luna in pesci, posso dirlo, è vero. Comunque, vi dovete trovare uno spazio dove è un momento dove non ci sono regole, non c'è il tempo, non ci sono i soldi, non ci sono i limiti. Cioè, tutti questi limiti della vita che comunque dovete affrontare nella vita di tutti i giorni, dovete trovare lo spazio dove non ci sono. Dovete amare e sognare liberamente. Mi piace. È molto importante quindi fare delle pause per proprio andare a viaggiare col cuore, con la mente. Però state attenti, pesci, e lo dico anche per il povero Kurt, che comunque avete tendenza a evadere attraverso le sostanze e anche a far diventare una piccola pausa una lunghissima pausa. Quindi magari uno inizia a farsi e fa una pausa del lavoro di 4 anni o... Cioè, può finire male la storia, quindi Gabri, ma che... state attenti a cari questo. Cari pesci in ascolto, cosa ne pensate? Io mi astengo. Che ti succede? Madre, se nascondi. Quindi abbiamo... Posso mandare un applauso? sì, sì, ho quasi finito. Ah, oddio, scusa. No, allora lo rimando. Figurati. Niente, vabbè, volevo solo dire che la sigla, mo non penso che avremo il tempo di mettere il pezzo, ma comunque il pezzo che c'è sulla sigla, un pezzo di Beyoncé, che è della Vergine, dove c'è anche Missy Elliott, che è del Cancro. Il pezzo si chiama Signs, che vuol dire segni, e praticamente nel pezzo lei racconta come ama tutti i segni. È un pezzo che stava nel suo album, primo album da solista del 2003, Dangerous in Love. E su questo vi lascio e vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie. E allora ora manca l'applauso. Non ha risposto alla domanda più importante, se era più forte Sciaga di Virgo o Saga di Gemini, però questa, giusto? Però basta, scrivo questa cosa. Bene, e dopo questo evento che siamo riusciti a mettere in onda, possiamo anche passare alla prossima rubrica. Dici? Che così, è di io. È di là. Oh, ragazzi, sì. Io stavo controllando l'orario, vabbè. Secondo me chiudiamo con te, Violi, e tra l'altro anche con qualcosa che magari vuole dire la nostra Emanuela, ospite numero uno, ragazzi, ascoltatrice Manu, numero ma uno. Ma se te stai qua, ma chi ci ascolta? Che si è palesata. Hai lasciato acceso il tuo computer esatto. Di noi? Dobbiamo fare le views. L'ho tenuto acceso fino alla porta, non perdo nemmeno un secondo. Grazie, raga, Manu. Perfetto, Manu. Preparati allora qualche sketch o aneddoto da raccontarci. No, dopo. Ma sicuro Viola. Devo andare io. Vai, Viola. Allora, ragazzi, io ci metterò poco, credo. Spero. Prenditi il tempo. Almeno la sigla la devi mandare. Sì. Quindi, sigla. Lasciatemi leggere. Sentire questa poesia. Vorrei. E non so leggere. Questa poesia. Calipso fa l'alta marea. Ah, siamo giocata pure Viola. Così, dai, così. E oggi parlerò di Madame. Così, vabbè, mi piaceva questa. Ripercorrere il viaggio quindi filosofico che fa lei con questo pezzo, diciamo, Marea. E il viaggio filosofico dell'orgasmo femminile, ragazzi. Parleremo oggi. Ah. Allora, quindi, un amore che diventa mito, la marea di Calipso. E Marea è stato il tormentone estivo dello scorso anno e le sonorità sono, diciamo, quelle tipiche delle canzoni da ballare sulla spiaggia, ma il testo si discosta dai canoni del genere. Nessun riferimento agli amori estivi, al sole e alle spiagge. Al contrario, protagonista della vicenda è un'affascinante figura mitologica, Calipso. È interessante però comprendere quale sia il senso dietro le parole. Sì, perché, diciamo, Madame ha abituato il suo pubblico a questi testi criptici, allegori, in cui la verità si nasconde dietro una foresta di simboli. Ebbene, Marea non fa eccezione. La ninfa omerica è infatti richiamata come simbolo della sensualità femminile. In fondo fu proprio lei a legare a sé Odisseo mediante l'amore carnale e a promettere lo sventurato marinaio la vita eterna per unirsi a lei. Tutta la canzone della cantante veneta non è altro che il resoconto allegorico di un rapporto sessuale omoerotico. La marea eponima scatenata da Calipso simboleggia il culmine del piacere. Occhi che si fondono, labbra che esplorano, amore che si fa carnalità. Uno stralcio di amore saffico che si trasforma in poesia mitologica. Certo, diciamo, il tema è insolito, ma non così esclusivo. È vero che la sessualità femminile è stata spesso messa ai margini del pensiero occidentale, trattata come uno scabroso tabù. Tuttavia, nella storia della filosofia si trovano tracce di essa e le ripercorreremo. Allora, iniziamo dal Medioevo, non perché l'età antica non abbia prodotto... Sì. Cosa? Sì, specialmente il mondo greco ha portato avanti un paradigma sessuale ben definito e tuttora oggetto di discussione. Tuttavia, in ambito greco-romano, il sesso e la sessualità attenevano a un contesto più antropologico e sociale che filosofico. Dunque, diciamo, in particolare si fa riferimento all'impero. Nella piccola città di Bingen, infatti, si sviluppa il pensiero di Hildegarda, badessa della sua comunità femminile. Famosa compositrice. Sì, la particolarità della badessa è quella di scrivere opere profetiche e mistiche direttamente ispirati dalla viva voce di Dio, che parla attraverso di lei come un umile megafono. Nella sua opera più corposa, la mistica descrive l'intero disegno divino così come appare dalla creazione al mondo e dal suo funzionamento. All'interno della gigantesca mole di informazioni c'è un passaggio particolare, la descrizione dell'orgasmo femminile. Sì, in un codice di teologia medievale scritto da una donna esiste la descrizione del punto più alto del piacere sessuale. Per comprenderlo occorre fare un passo indietro. Il pensiero di Hildegarda è un pensiero davvero icastico e di rottura con la tradizione. In un mondo prettamente maschile, la badessa tedesca riesce a ritagliare uno spazio totalmente femminile, quello del suo convento, in quello che è riconosciuto come un pensiero femminista ante litteram. La mistica fa della donna la creatura più alta di tutto il creato. La missione delle donne è quella di sciogliere i legami sociali che la vogliono sottomessi agli uomini per unirsi in comunità monastiche femminili e continuare l'opera di Maria. La Madonna ha conservato il figlio di Dio in grembo, le comunità femminili conservano la sua parola. È proprio questo il contesto che si colloca, diciamo, che spiega questa descrizione appunto che si fa dell'orgasmo femminile. Non è considerato come un tabù, ma celebrato come il momento più alto e intimo della donna, da cui si origina la vita. Quando una donna fa l'amore con un uomo, sentendo un senso di calore nel cervello che porta alla gioia dei sensi, comunica il gusto, quella delizia durante l'atto e stimola l'emissione del seme dell'uomo. Non a caso le parole usate sono le stesse attraverso cui descrive Bello. L'origine del mondo, un fuoco che scalda ma non brucia. Riconosce l'universo femminile, la filosofia della differenza. E abbiamo ancora tempo, ragazzi. Questa cosa non è so. Citata anche in Amadeus. Prego. Io ho messa, così, ho messa intanto ci abbiamo la disco. Io vado, non lo so. Però rischiamo di non sentirla. Vai. Se dunque l'orgasmo e la società femminile trovano una prima celebrazione nel Medioevo, è chiaro, diciamo, che come essi siano ancora subordinati alla dimensione procreativa. E ci vorranno secoli perché la sessualità femminile sia svincolata dal fine riproduttivo e conquisti una sua autonomia anche rispetto alla figura maschile. Quindi il punto di riferimento nasce nel XX secolo e prende il nome di filosofia della differenza, che si intende il pensiero nato a partire dalle riflessioni della psicanalista Ingray, la quale ribalta la prospettiva della sessualità femminile. E la filosofia della differenza rilegge tutto il paradigma, attribuisce alla donna e alla sua sessualità un ruolo paritario e contemporaneo, svincolato da quello dell'uomo. Poi, che vi posso dire più, ragazzi? Diciamo, vado in chiosa, sì. È qui che si inserisce Madame. Cioè, oh, ecco, Madame, eccola qui, la stavamo aspettando. La quale elimina l'elemento maschile ed esalta l'amore fisico tra due donne, vissuto nell'impeto di una passione tale da toccare quell'eternità promessa da Calipso Odisseo. Calipso fa l'alta marea, a sud nelle tue labbra, foresta, caligo, marea. È questo, ragazzi. Ma come fa? E ce la sentiamo, Madame. Tra l'altro suonerà anche ai Ruderi di Cirella quest'estate. Facciamo proprio così pubblicità. Spinta. A Marchetta, Madame. Però dai, apprezzabile. Madame. Sì. Fiori nella sabbia. Santa. Nei tuoi occhi, Santa. Nei tuoi tocchi, salto. Danzo. Radio Forte, Centocelle Avengers, gli ultimi minuti giusti per salutare un'altra volta, oltre che noi stessi, e darci appuntamento al dopo saggio. Chissà che cosa ci racconteremo del dopo saggio, semmai la faremo questa puntata di tutti luglio, faremo traumifonici, col bene che vi voglio, ma salutare anche l'ascoltatrice numero uno che ha lasciato il suo computer comunque in ascolto, quindi non ha tolto decresciuto il numero di ascoltatori. Emanuele, almeno un ascoltatore. Ma, ciao. Benvenuta Manu. Ciao ascoltatori dal numero 2 in poi. Vabbè, io ovviamente ascolterò anche il podcast dopo, perché brava, il divano mi ha trattenuto per i primi 20 minuti. Grande. Dopo circa 2 anni di tentativi e promesse sono finalmente riuscita ad arrivare. 3 anni. Ma dici, cosa ti ha spinto questa volta a staccarti dal tuo divano così bello? Beh, che ti è appunto stato, che prove, cioè. È stato merito di Biascicone. Ah, ecco. Ah, già, è lo spoiler che ci aveva dato. Pessimi. pessimi. Questo è stato lo slancio. Roba di saggio. Ma quindi non l'hai fatto per noi. Arrangia per noi. Niente, accenno di sigla. Va bene, insomma, tutto gravita intorno a questo saggio. E allora non ci resta che darci appuntamento e darvi appuntamento a martedì 4 luglio prossimo. A che ora? Dove? Yes, a partire dalle 19:20 saremo qui a allietarvi. Anche prima, certo, sarà certamente alle una 20 bella giornata. C'è scritto. Finite di lavorare, chi può, chi non può, insomma. Raggiungeteci in serata, ci sarà il saggio di quest'anno che sarà ne sentirete parlare, insomma. Già. O comunque potrete anche ascoltarlo in diretta, credo, no? Incredibilmente sì, sullo stesso sito dove troverete anche questa simpatica puntata in podcast, forteprenestino.net/radioforte o comunque la sezione radioforte, e sì, avremo anche il coraggio probabilmente di streamare per chi non avesse la fortuna di venire. Rimane il tempo per dirvi che vi voglio bene, che comunque ci vediamo dopo tante altre cose, e sigla! Saluto con le prime. Ciao! Ciao! Ciao! Non sono più quelli che già ti vedo.